e all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Signori, sono qui, sono le 7:19 minuti, anzi ormai quasi 7:20 minuti, è lo spazio dedicato alla lettura dei giornali, lo sapete, la rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo, caro Peter Bescapè, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 16 marzo, i giornali, intanto devo dire che non troverete oggi in edicola il Sole 24 Ore per lo sciopero dei dipendenti del gruppo Non Giornalisti, che è poi lo stesso sciopero a cui hanno aderito anche ieri i dipendenti Non Giornalisti di Radio 24, dunque non c'è in edicola il Sole 24 Ore, ma vediamo gli altri quotidiani che trovate e a cominciare dal tema dell'Olanda, le elezioni in Olanda con il Corriere della Sera che apre su questo tema. Olanda, l'onda populista frena, così Repubblica, l'Olanda non cede al populismo e anche la stampa, Olanda diga contro i populisti. Questi sono i titoli relativi all'Olanda, anche il Messaggero, un argine ai populisti, la vittoria del liberale Rutte Premier e la sconfitta di Wilders. Venendo alle questioni italiane, c'è la vicenda Lotti, il ministro che ha superato, ministro allo sport che ha superato la mozione di sfiducia ieri al Senato. Lotti continua, è il titolo del Manifesto con la foto di Lotti. E poi Il Fatto Quotidiano, tutto è perdonato, in aula l'abbraccio PD Forza Italia, la casta si autoassolve, questo è come viene dipinta la vicenda Lotti. Mentre gli altri titoli, La Verità apre su Nasce il Partito Islamico Italiano, già varata l'Assemblea Costituente per dare ai musulmani una rappresentanza eletta a un bacino potenziale di 2 milioni di voti e sostiene che la poligamia è un diritto civile, questa è la denuncia della Verità in prima pagina, mentre Avvenire si concentra su una campagna che il quotidiano dei Vescovi porta avanti da tanto tempo, gli spot dell'azzardo dilagano sui media, questa è l'accusa in prima pagina. Ma voglio partire dalla prima pagina del Giorno, che in realtà ripropone l'intervista esclusiva a Panorama di Jessica Notaro. Jessica Notaro, forse ricordate, nell'agosto del 2016 è stata aggredita con l'acido in faccia e di questa aggressione deve rispondere come unico indagato l'ex compagno Jorge Edson Tavares. Ebbene, la prima del Giorno, Jessica, io non perdono, viene riproposta l'intervista che oggi è in esclusiva su Panorama e che ho qui davanti, l'intervista di Giovanni Terzi a Jessica Notaro. Così ho affrontato l'acido e l'odio che bruciavano sulla mia faccia, racconta quella serata ovviamente drammatica. Ero a mangiare con gli amici in un ristorante a Rimini, verso le 22 mi arriva la telefonata di mia madre che mi dice, preoccupata, che Eddie, cioè l'ex fidanzato, mi ha cercata perché ha assolutamente bisogno di parlarmi. Ha chiamato mia madre perché io lo avevo bloccato sul cellulare, non volevo più sentirlo, l'avevo ripetutamente denunciato. E come ti aspettavi di trovarlo sotto casa? Lasciamo stare, su questo dobbiamo parlare seriamente perché non sono mai esistiti controlli efficaci. A lui era stato imposto prima l'obbligo di starmi distante 500 metri, poi l'obbligo è stato ridotto a 50 metri, infine è stato messo agli obblighi domiciliari, ma lo si trovava in giro per la città a tutte le ore. Quella sera posteggio, esco per andare verso casa, è un lampo, un istante terribile, all'improvviso Eddie salta fuori dal retro di un'auto parcheggiata, mi si scaglia addosso, mi versa l'acido sul viso con una bottiglietta e poi scappa. Io lo riconosco, urlo, cerco addirittura di inseguirlo, poi provo un dolore immenso, sembrava che il mio occhio e la mia faccia friggessero, comincio a non vedere più, grido disperata. Ho detto a mia madre che Eddie mi aveva buttato l'acido e lei mi voleva bagnare il viso, ma io le dicevo no, non farlo, non farlo. Come facevi a sapere che non dovevi bagnare la faccia? Mi ero informata, non ti nascondo che in alcuni momenti avevo molta paura che Eddie fosse capace di farmi del male. Per questo l'avevo denunciato. È violento e lo sapevo, ma in troppi non hanno controllato e hanno sottovalutato la sua indole. E poi racconta della sua vita, racconta della volontà di aiutare tutte le persone che hanno subito la stessa aggressione e conclude l'intervista: non perdono Eddie, non lo perdonerò mai, ma non lo odio. Devo inseguire i miei sogni, la musica che avevo già preparato con il mio amico Mauro. L'odio non mi appartiene come sentimento. Ma la trovate su Panorama, questa intervista sicuramente da leggere e su cui meditare molto. Oh, se vogliamo andare sulla cronaca, è la solita storia: soldi, soldi, soldi, appalti e mazzette. Questo è il titolo almeno di Repubblica, l'inchiesta di Repubblica, appalti e mazzette, e riguarda Maria Elena Vincenzi a pagina 10, un'altra vicenda legata alle inchieste della Procura di Roma sulla sanità. La declinazione della mazzetta è arrivata a livelli da dettagli da commedia all'italiana. Ebbene sì, perché entra nella mazzetta la richiesta delle tette finte all'amica brasiliana. Questo almeno raccontano i dettagli dell'inchiesta, che partiva dalla ASL Roma 1, passava per la Corte di Cassazione, arrivava fino alla Camera, perché tra gli indagati c'è il parlamentare Forza Italia, imprenditore della sanità Antonio Angelucci, accusato di traffico di influenze. Lui si dichiara peraltro però estraneo ai fatti. Gli episodi, racconta Repubblica, contestati dai carabinieri del NAS sono tre. Il primo racconta la storia di un processo in Cassazione, anzi due. In entrambi sono coinvolte le aziende di Angelucci, il quale si rivolge a un amico, Maurizio Ferraresi, dirigente della ASL Roma 1, per chiedere di avvicinare qualcuno del collegio del palazzaccio, cioè della Cassazione, cioè un magistrato. In cambio il deputato promette al dirigente di assumere le fidanzate dei due figli con uno stipendio da non meno di 2,5 piotte al mese, cioè 2.500 euro in romano. Il dirigente dell'ASL vuole agevolare l'onorevole, che chiama Tonino, e per farlo chiama un amico, ex giudice della Corte di Cassazione e in pensione, Amedeo Franco, tra l'altro lo stesso che scrisse il verdetto Mediaset contro Berlusconi, che costò il seggio a Palazzo Madama a Berlusconi. Il magistrato si mostra disponibile ad avvicinare un ex collega in Cassazione per perorare la causa. È uno che conosco da anni. E in cambio cosa chiede, secondo l'accusa? In cambio chiede il piacere, stando alle intercettazioni, un piacere a cui tiene moltissimo. Vuole che il dirigente dell'ASL gli firmi un certificato con tanto di timbro ASL per dire che la sua amica brasiliana Deborah da Silva Sampaio aveva necessità di un intervento per la sostituzione delle protesi mammarie. Un modo per ottenere il rimborso dall'assicurazione. Che problema c'è? Te lo faccio il certificato con la medicina legale, è inoppugnabile. Questa è la risposta del dirigente ASL. Eccolo qui. Anche sul fatto, inchiesta sanità, Angelucci, il giudice e le tette dell'amica. Pagina 5, Valeria Pacelli racconta questo intreccio, appunto, da commedia all'italiana. Oh, soldi, soldi, soldi. Pagina 14 di Libero. La storia dell'albanese Edward Bicu, 36 anni, imprenditore edile, arrivato in Italia come giardiniere, ha creato un impero, ha avuto un contenzioso con Equitalia, che però ha beffato. Un albanese beffa Equitalia, prescritta la multa milionaria. Per 7 anni non paga le tasse, fugge quando il fisco gli chiede il conto da 2 milioni e la giustizia con la sua lentezza gli dà una mano. Doveva lo Stato oltre 2 milioni di euro, ma il reato di sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte che gli era stato contestato nel 2009 non è più perseguibile. Sono passati 7 anni e mezzo, la giustizia è andata a rilento e l'altro giorno il giudice, di fronte all'avvocato di Equitalia, non ha potuto che dichiarare il non luogo a procedere. Bicu ha gabbato lo Stato, è sparito con una montagna di soldi che gli doveva. E questo lo racconta Libero a pagina 14. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata. torna questa parola che sarà contestata dai protagonisti, ma di fatto il Corriere della Sera la mette a pagina 23. Bella nel titolo, la sanatoria di De Luca che salva 70.000 case abusive. Siamo in Campania, lo stop alle ruspe sugli immobili irregolari. Saranno date in affitto, è tutta la vicenda del mancato condono in Campania. L'idea della regione Campania è questo: consentire ai comuni di rilevare anziché abbattere le strutture abusive. E nel caso si trattasse di semplici abitazioni e non di capannoni o strutture adattabili a uffici pubblici, il suggerimento è riconsegnarle in fitto a chi già le abita, sebbene siano abusive. Inutile dire, scrive Marco De Marco a pagina 23 del Corriere, inutile dire che nel patrimonio così acquisito si prevedono mirabilia di ogni genere, di quelle che abbondano nei programmi e che puntualmente difettano nei bilanci consuntivi, e dunque asili nido, biblioteche, teatri, centri sociali. D'altronde, come ha detto De Luca nei giorni scorsi, lo disse anche qui ai microfoni di 24 Mattino quando si candidò in Campania, dovremmo forse comprare un'isola nell'Egeo per svernare lì tutti i materiali di risulta se volessimo abbattere tutti gli edifici abusivi? Nessuna spiegazione del perché un analogo provvedimento non abbia funzionato negli anni passati. Comunque, quello di De Luca è per ora solo un disegno di legge, ma il Corriere denuncia è una sanatoria che salva 70.000 case abusive. Angelo Milan, il closing dell'informazione. No, closing no, domani, domani. Va bene, va bene. Domani, oggi pare, oggi, domani, non so, devono arrivare i soldi. Peter Biscapè, se arrivano 100 milioni, dimmi. Se arriva qualcuno che ne mette 400 per il Milan, diccelo. Insomma, io ormai ho perso un po' anche la voglia di star dietro a queste voci. Allora, ieri la giornata politica è stata segnata sicuramente dalla sfiducia, mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello sport Luca Lotti, che però è stata votata e respinta in Parlamento. La mozione del Movimento 5 Stelle, 161 i voti contrari, 52 i favorevoli, 2 astenuti, era abbastanza scritto nei numeri che andasse così. Lotti, niente sfiducia, lui dice vado a testa alta. Dei tanti articoli politici che raccontano la giornata di ieri, vi voglio segnalare il racconto di Francesco Verderami a pagina 8 del Corriere della Sera, lui che dice in fondo, dopo che parlano quelli del Movimento 5 Stelle, credevo peggio, sussurra in aula l'esponente del governo dopo l'arringa grillina. Il peggio però sarebbe arrivato di lì a poco con lo scissionista Gotor, dunque PD, che indossando i panni del PM avrebbe rappresentato il giglio magico come una sorta di rapace chilometro zero del potere, una sorta di amici miei in salsa governativa. E infatti, se salto anche sulla retroscena di Goffredo De Marchis, siamo su Repubblica, pagina 7, la rabbia di Luca Lotti è proprio rivolta più ai suoi ex colleghi di partito che a quelli del Movimento 5 Stelle. Intanto racconta De Marchis che a fine giornata si sente soddisfatto ma provato, perché non è finita. Per me l'unica cosa importante è che le bugie vengano a galla. Non si è sentito con Renzi solo una serie di SMS. E la stampa rivela che in un SMS Renzi ha scritto a Lotti bravo col punto esclamativo. Ovviamente sono tutti retroscena, nessuno si è impossessato del cellulare di Lotti per verificarlo. Ma ecco qui l'accusa molto dura di Lotti, lo sfogo con i suoi nei confronti dei suoi ex colleghi di partito. È stato pesantissimo Gotori. I 5 Stelle pensavano che mi rivolgessi a loro quando ho parlato di cultura subalterna e politica scorretta, ma io ce l'avevo con Gotor, ce l'avevo con i fuoriusciti. Davvero non riesco a credere che Bersani sia diventato subalterno a Grillo. Questa è la versione, e dunque panni sporchi in casa o nella ex casa o nella ex ditta per il Partito Democratico e per Luca Lotti. Tra l'altro, sul fronte dell'inchiesta, però, a pagina 6 di Repubblica, Dario Del Porto e Concita Sannino raccontano che, insomma, al di là della questione politica, al di là della mozione di sfiducia respinta, l'ultima sfida tra l'amministratore delegato della Consip Marroni e Lotti c'è. Perché, come scrive Repubblica, uno dei due mente. Davanti al magistrato, infatti, l'accusatore Luigi Marroni, che ricordiamo è stato messo lì alla Consip sotto il governo Renzi, dice: a luglio 2016 Luca Lotti mi informò che si trattava di un'indagine e che c'era un'indagine che riguardava l'imprenditore campano Romeo che mi fu rivelata da lui. Mi fu rivelata da Luca Lotti, poi dal presidente Consip Ferrara, da Filippo Vannoni e dal generale dei Carabinieri Emanuele Saltalamacchia. Inoltre Marroni riferisce ai magistrati di un ricatto spregevole che Carlo Russo, faccendiere amico dei Renzi, avrebbe esercitato da parte di Babbo Tiziano per favorire una ditta vicina a Denis Verdini. Dunque, le parole di Marroni fanno tremare i potenti. Lotti risponde: sono calunnie dettate dalla paura. Ma insomma, uno dei due dice qualcosa che non va, fa notare Repubblica. In tutto questo, Renzi, che ieri è tornato a riappropriarsi dello strumento Matteo risponde su Facebook, ha detto tra l'altro: ora mi divertirò con le querele, noi siamo puliti, dobbiamo andare avanti, state sicuri che ci divertiremo, ne vedremo delle belle, e promette appunto le querele: non avendo più responsabilità di governo mi diverto a chi insulta e a chi insulta presento querele molto corpose anche come richiesta di risarcimento. Uno non fa in tempo a girare pagina sul Corriere della Sera che Luigi Di Maio risponde in qualche modo a Renzi con questa intervista di Alessandro Trocino. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera. Luigi Di Maio dice: beh, Renzi, la sua disonestà politica fa venire i brividi. Tangentopoli è scoppiata per una querela. Bene, siccome Renzi minaccia querela, io dico che sapeva dell'inchiesta Consip. Questa già è una frase da querela, se stiamo al nuovo corso renziano. Come fa a dirlo? Lo sostiene Filippo Vannoni, renziano di ferro, suo uomo di fiducia. Fa rabbrividire l'atteggiamento di Renzi, che insabbia, sminuisce, glissa, ha infangato le istituzioni. Ma perché volete le dimissioni di Lotti e non quelle di Virginia Raggi, anche lei indagata? Garantisti a giorni alterni? Noi non siamo garantisti, se questo vuol dire aspettare il terzo grado di giudizio, risponde Di Maio. Ma in questo caso la retorica del garantismo non c'entra, sono due vicende non paragonabili, e non chiediamo le dimissioni di Lotti perché è indagato, ma perché è coinvolto in una vicenda torbida che riguarda anche il padre del Premier. Lotti ha commesso un fatto gravissimo, ha tentato di sabotare le indagini dei Carabinieri. Perché Renzi ha fatto dimettere Lupi e la Guidi e il sottosegretario Gentile e non Lotti? Perché quelli erano pesci piccoli, dice Di Maio. Qui, se cade Lotti, cade il governo. Dunque, Luigi Di Maio, 5 Stelle, vicepresidente della Camera, risponde in qualche modo a Renzi. A proposito del Movimento 5 Stelle, c'è questa vicenda che continua del blog di Beppe Grillo, ripudiato dallo stesso Grillo, perché la vicenda di una richiesta di 1 milione di risarcimento danni da parte del PD nei confronti di Beppe Grillo per un post apparso su beppegrillo.it. La risposta degli avvocati di Grillo di fatto è questa: Beppe Grillo, sul sito beppegrillo.it, non è responsabile dei contenuti. Il responsabile dei contenuti è tale Emanuele Bottaro, titolare del dominio beppegrillo.it. Emanuele Bottaro viene intervistato da Repubblica, viene raggiunto. È Caterina Giusberti che lo raggiunge a pagina 13. L'intervista è spassosa a suo modo. È vero, il dominio è intestato a me dal 2001, è un dato pubblico, sono io. È un certo Emanuele Bottaro, il blogger più famoso d'Italia a questo punto, modenese, classe 65, lavora per una società di comunicazione che si occupa d'ambiente. Io mi rendo conto che è difficile capire, risponde Bottaro, ma ho un rapporto personale con Beppe, punto e basta. Stiamo parlando del 2001, Beppe in quel periodo non pensava alla politica, il dominio era libero, io gli ho detto: guarda, prendilo, ma a lui non interessava, così l'ho preso io, l'ho registrato solo per toglierlo dal mercato, il blog è venuto dopo, l'ho intestato a me prima che venisse ancora a Casaleggio. Ho capito, ma non le dà fastidio mettere la faccia su una cosa che a quanto dice non la riguarda? E ogni tanto ci ho pensato, a volte se ne è anche parlato di intestare il blog a qualcun altro, poi Beppe mi ha detto: se non ti dà fastidio io mi fido di te, e così tutto è rimasto com'era. E se sono ancora qua c'è un motivo: Beppe è un amico da 20 anni, una persona splendida, una delle più corrette, disinteressate, generose che conosca. Il nostro rapporto è talmente fiduciario che tra noi non c'è nulla di scritto. Quindi se domani lei decidesse di chiudere il blog potrebbe farlo? Oddio, non lo so. Sicuramente i suoi avvocati si farebbero sentire. Ma ha avuto problemi di querele? Ma sono stato citato in giudizio 2 volte su decine di querele arrivate a Grillo. Ma i suoi avvocati hanno sempre spiegato che io non c'entro coi contenuti. Io proprio non ho nessun tipo di rapporto con l'attività del blog. Non so niente. Non sono neanche iscritto. Non mi sono mai candidato ai 5 Stelle. Cioè, non so se avete capito, anche Bottaro, che è il titolare del dominio, praticamente dice io non so niente di questo blog. Tanto che Mattia Feltri, oggi, il buongiorno sulla stampa, beh, non è male, nonbeppegrillo.it. Il blog di Beppe Grillo, scrive Feltri, che si chiama il blog di Beppe Grillo, non è il blog di Beppe Grillo. Lo hanno sostenuto gli avvocati di Beppe Grillo, che visti i risultati sono i non avvocati di Beppe Grillo, secondo i quali Beppe Grillo non è responsabile né titolare del blog. Questo nonostante, o proprio perché nello statuto del movimento, che si chiama non statuto del movimento, ci sia scritto che Beppe Grillo è il titolare effettivo del blog. Ma essendo lo statuto un non statuto, fa presupporre che Beppe Grillo è il titolare effettivo del blog, vada letto come Beppe Grillo non è il titolare effettivo del blog. E quindi non è nemmeno evidente che lo statuto o non statuto dica una cosa, gli avvocati o non avvocati ne dicano un'altra. Forse non c'è contraddizione, infatti l'indirizzo del non blog di Grillo è www.beppegrillo.it e digitando www.nonbeppegrillo.it esce una pagina vuota. Ma può benissimo essere che la pagina vuota sia l'effettivo blog di Beppe Grillo. Di conseguenza, se vi capitasse di sentirvi diffamati o calunniati dal blog di Beppe Grillo, sappiate che quello non è il blog di Beppe Grillo, e se al contrario fosse il blog di Beppe Grillo, e se tutto questo ha una logica, automaticamente sareste non diffamati o non calunniati. Quindi sporgere querela contro il blog di Beppe Grillo ha esattamente lo stesso senso che non sporgere querela contro il non blog di Beppe Grillo. Avete il mal di testa? Sbagliate. Avete non mal di testa. Alessandro Milan, che legge il giornale un coup e anche a domani. Evviva, si spera. Allora, per chiudere la questione Beppe Grillo, c'è anche Berlusconi che ha attaccato Beppe Grillo dicendo io non lo volevo nelle mie TV perché chiedeva soldi in nero. I suoi, cioè quelli del Movimento 5 Stelle, sono peggio dei comunisti. Questo è il Berlusconi pensiero riportato dal Corriere ieri, una conversazione per la verità anche sul giornale. Vabbè, apriamo i nostri orizzonti, guardiamo quello che è successo in Olanda. In Olanda ci sono state le elezioni importanti, si attendeva anche il posizionamento di Geert Wilders, cioè il partito, quello che conduce il partito, molto anti-islamico oltre che anti-europeo. Ebbene, cosa è successo? Che non c'è stata la valanga di voti, anzi ha vinto il partito del premier Rutte, che è stato dunque confermato. Quello che è il titolo più gettonato da tutti i giornali è fermata l'onda populista, l'onda dell'estrema destra. Il premier liberale è nettamente primo negli exit poll e dice proprio fermati i populisti. Certo c'è il rebus della maggioranza, ma insomma queste sono cose interne che poi si vedranno in Olanda. Geert Wilders rilascia qualche dichiarazione, è il grande sconfitto, ha conquistato pare 4 seggi, non tantissimi, ma lui guarda avanti. Questo è il titolo di pagina 3 del Corriere della Sera, qualche dichiarazione: parlare di Islam non è più tabù. Tra l'altro racconta Andrea Nicastro sul Corriere della Sera che lui, protetto da 2 cordoni di guardie del corpo, una di Stato, una del partito, da anni vive isolato, in case segrete, cambiando letto all'ultimo momento per paura di un attentato di matrice islamica. Anche per questo ha affinato le comunicazioni con i social network, saltando i giornalisti che lui definisce servi del sistema. Comunque, dice Rutte, non si è ancora liberato di me, ora si può parlare di Islam e non vado alle poltrone. Di questi temi 5 anni fa nessuno discuteva e a chi gli dà del populista, dice: certo, perché i politici tradizionali non hanno la minima idea di cosa ha bisogno la gente. Ma, dice il Corriere, questa volta è lui in realtà a non aver capito bene cosa vogliono gli olandesi, almeno questo dalle urne. In tutto questo, in America, Trump ci ha riprovato con il bando che però un giudice delle Hawaii nella notte italiana, si chiama Derek Watson, è un giudice federale, ha bocciato per la seconda volta. È la seconda versione dell'ordine esecutivo del 6 marzo che sarebbe dovuto entrare in vigore oggi e che vieta per 90 giorni l'ingresso negli Stati Uniti a viaggiatori provenienti da 6 paesi prevalentemente musulmani, vale a dire Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. È inoltre bloccato l'accesso ai profughi di qualunque stato per 120 giorni, ma anche questa seconda versione del provvedimento, definito dai giornali Muslim Ban, cioè il bando musulmano, è stato considerato illegale. Per questo giudice federale delle Hawaii è un bando anti-musulmano. Quindi forse nuovi problemi legali in vista per l'attuazione di questo atto del presidente americano Donald Trump. Voglio segnalarvi la prima pagina di Avvenire. Si dedica con Antonio Maria Mira alla lotta al gioco d'azzardo legalizzato. Se la prende soprattutto con gli spot. Azzardo, tutto esaurito su giornali e TV. Boom di spot sui media tradizionali e anche online. Vola la pubblicità sulle scommesse sportive. Questo per Avvenire. Non è un bene, è boom della pubblicità. Nel 2016 i soldi investiti sono cresciuti del 39,6% rispetto all'anno precedente 2015, e visto che sono stati investiti in questo tipo di pubblicità 71.600.000 euro contro i 51,3 dell'anno precedente. Numeri molto più alti di tutti gli altri settori economici. Basti pensare che il totale degli investimenti pubblicitari invece è cresciuto solo dell'1,7%, questi del 39,6%. Dunque, grandi incassi per le imprese che così possono permettersi tanta pubblicità in più. Questo è ben gradito da gran parte dei media, dei mezzi di informazione, su quali poi i problemi e i drammi dell'azzardo trovano ben poco spazio. E Avvenire si picca, insomma, sottolinea di dire: Avvenire non ha mai accettato invece un euro da questo tipo di pubblicità. E così viene inascoltato l'appello dell'associazionismo, che ha chiesto la messa al bando di questi spot pubblicitari. Ma signori, oggi sulle prime pagine dei giornali, all'interno, ma in prima pagina sul Corriere della Sera e sul Messaggero, trovate una Marcord che a me ha fatto veramente aprire il cuore in quattro. Ma ve lo ricordate? Ve li ricordate? Starsky & Hutch. Ragazzi, scusate, i più giovani mi scusino. Anche Lorenzo Nespoli mi guardava con due occhi sgranati e dire: vabbè, ma io ero piccolo allora. Starsky & Hutch. Vi ricordate con la Gran Torino rossa con la striscia bianca? Allora, c'è questa foto di Starsky & Hutch oggi, 73 anni. Io l'ho messa anche sul mio profilo Twitter. A questa parte era bellissima. Allora, sono andati a Liverpool a un incontro con i fan. Uno in sedia a rotelle, ormai in difficoltà fisica, e l'altro che spingeva la sedia a rotelle. E questa immagine di loro che si dicono ancora più che amici, quasi due fratelli, e questa è già una rarità, perché sapete, poi nel mondo dello spettacolo ci si perde. Invece, eccolo qua, una pagina del Corriere, mi sembra giusta. Starsky & Hutch, uno ormai sulla sedia a rotelle, l'altro che lo spinge. La storia di un'amicizia più forte, di tragedie, malattie. Matteo Persivale racconta della storia di David Soul e Paul Michael Glaser, vale a dire Starsky & Hutch, appunto. E vabbè, trovate la foto, trovate questa storia, trovate questa barcord sui giornali. So che molti di voi mi capiscono in questo momento. Beh, notizia soprattutto importante per la nostra Elisabetta Fusconi, che vive, insomma, si sa di queste cose. Una pagina del Giorno dedicata alla vita in carcere di Olindo. Olindo, condannati all'ergastolo, Olindo e Rosa Bazzi. Di cosa vive? Beh, ha un pollice verde, pensa di iscriversi e comunque di studiare agraria, cura le piantine, fa colloqui con gli avvocati molto di corsa perché appunto si dedica a coltivare questo suo pollice verde. Una pagina sul giorno. Mentre siamo all'articolo che vince oggi il premio La Carta Costa, articolo più inutile, scovato sui giornali, una pagina del Corriere della Sera, Luigi Ippolito William, il suo ballo, ecco il principe pigro che passa la notte folle in discoteca evitando gli impegni ufficiali e andando a preferire invece gli amici in Svizzera. Ma chi se ne frega!